medyo lanong style. Ritiras mai, cosa nel cuore hai? Orgoglio e forza dai. Io non mi arrendo mai, io non mi fermo mai. Porto fino alla fine la mia guerra e tu lo sai. Medyo lanong style. Ritiras mai, cosa nel cuore hai? Orgoglio e forza dai. Io non mi arrendo mai, io non mi fermo mai. Porto fino alla fine la mia guerra e tu lo sai. Rimango fermo sul fine, cammino sulle mine. Il dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, per i miei mani. Rimango fermo sul fine, cammino sulle mine. Il dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, solo per i miei mani. Yo, porto avanti guerra e l'odio perché l'amore non c'è né rispetto né gloria per chi rimane con me. Gladiatore mercenario tipico tipo da crash test. Chiamami Dead, originale Tankman. Inarrestabile, ambizioso, mio nemico non perdono. Figlio di puttana, solo sputo fuoco sul mio suono. Red stile, flow buono, dal nulla io come tuono. Distruggo questo suolo, ehi God, ehi. Il male buono perché forte mi sa rendere. Ogni calcio in culo ha saputo farmi crescere. L'obiettivo è lo stesso, il nemico da distruggere. Il popolo si limita e non segue le vostre regole. Qui la vittoria si determina da quanto tu vuoi vincere. Come sulla panca tutto l'odio devi spingere. Non perdere la strada, no, non farti mai convincere. Fino alla fine rimango strato sul fine. Cammino sulle mine, il dolore mi uccide. Fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, per i miei mani. Rimango fermo sul fine, cammino sulle mine. Il dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, solo per i miei mani. Yeah, qui nessuno ti regala proprio niente. Conta su te stesso, vincitore o perdente. Fanculo a questa gente, parla troppo ma non rende. Dentro la tua classe sono sempre stato assente. Io non mi leggo zero, non assumo il tuo veleno. Don Gadi sputa il suo siero, combattente per davvero, sì. Io non ti imito, mi isolo, alieno nel tuo mondo uomo. Cospiro come fossi un visitor. La gente trema perché vuole il tuo flow. Hanno paura della tua determinazione da boss. Non ti arrendere, non smettere, pugni il cazzo ti do. Sono fatto per resistere, incassare ad ogni gong, uomo. Mi alleno duro, testa bassa per l'incontro. Vivo di sacrifici, da tempo rinuncio al mondo. Mi guardo allo specchio, vedo il mio nemico riflesso. Solido, saldo, roccia, in piedi, rimango fermo sul fine. Cammino sulle mine, dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, per i miei mani. Rimango fermo sul fine, cammino sulle mine. Dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, solo per i miei mani. Medyo lanong style. Ritirarsi mai, cosa nel cuore hai? Orgoglio e forza dai. Io non mi arrendo mai, io non mi fermo mai. Porto fino alla fine la mia guerra e tu lo sai. Rimango fermo sul fine, cammino sulle mine. Il dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, per i miei mani. Rimango fermo sul fine, cammino sulle mine. Il dolore mi uccide, fino alla fine. Clack clack le mani, per i gorilla mani. Combatto per i mani, solo per i mani.